Tempo di Sport con Carlo Genta. Non c'è una squadra che mi si è presentata ancora per darmi quanto stabilito con la clausola rescissoria dopo aver raggiunto l'accordo con i ragazzi. Pena ci ha fatto, si è avvicinata, ho detto molto, ci ha fatto una proposta. Wenger vuol parlare con me ancora, perché vuole ancora farmi delle proposte. Io non ho nessuna preclusione, perché può darsi che insieme ad una situazione economica possa trovare anche una situazione tecnica. Sì, Ebue è un giocatore che ho fatto, è un nome che ho fatto, perché so che Ebue è un giocatore che ha un solo anno di contatto con l'Arsenal, è un giocatore che risponde ai requisiti tecnici ed economici nostri. Domettini, state tranquilli, buongiorno a tutti. Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadone in regia. Questo è Pantaleo Corvino, sì, DS della Fiorentina, ma è Pantaleo Corvino 24 ore fa, e sappiamo come in questo periodo dell'anno 24 ore siano un sacco di tempo. Infatti Felipe Melo non andrà all'Arsenal per nulla, è della Juventus ed è il secondo grande colpo, o terzo se ci mettiamo anche Cannavaro, nel mercato della signora. Saluto e ringrazio Enrico Currò, inviato di Repubblica. Ciao Enrico. Ciao. 24 ore sono un sacco di tempo, eh? Ebue rimane a Londra o va da qualche altra parte. Felipe Melo prende la strada di Torino. Gran bel colpo quello bianconero, secondo me. Gran bel centrocampo quello che nasce. Molti dicono, ma si voleva D'Agostino, si è preso Felipe Melo, che costa anche di più. Secondo me vale anche qualcosa in più. E poi secondo me sono anche sofismi quelli del ruolo differente tra D'Agostino e Felipe Melo. Sono due signori centrocampisti, tra i due il brasiliano mi pare più forte. Ma io credo che Felipe Melo risponda meglio alle esigenze tattiche della Juventus, al di là delle considerazioni sulla qualità del giocatore. Certamente più esperienza internazionale, reduce da un'ottima Confederations Cup, quindi in teoria vale di più, però D'Agostino è sicuramente un ottimo giocatore, soltanto che c'è differenza di caratteristiche, ed è chiaro che D'Agostino, che è un giocatore soprattutto abile nel lancio, diciamo il suo acquisto sembrava un pochino strano con le caratteristiche della Juventus che si stava mettendo in piedi, sì, e che è stata messa in piedi, perché per i giocatori che ci sono attualmente nell'attacco della Juve, un giocatore come Felipe Melo, che è abile anche nell'interdizione, anche nel fraseggio stretto, è certamente più adatto rispetto a un giocatore come D'Agostino, che certo, è un lanciatore principalmente. Quindi credo che al di là delle valutazioni appunto economiche o delle disquisizioni sul valore tecnico dei giocatori in questione, che sono comunque opinabili, l'acquisto di Felipe Melo si è azzeccato proprio sul piano tattico. Sì, 800240024 per le vostre telefonate. Immagino che oggi una delle domande più gettonate anche via SMS, magari 349-238-6666. E al di là della rabbia che già leggo da parte dei tifosi fiorentini, ma poi ne parliamo, il domandone sarà: ma a questo punto la Juventus è vicina all'Inter? Quanto è vicina all'Inter? Secondo me dipenderà la risposta alla domanda è molto legata alla verifica del valore di Diego nel nostro campionato. Io credo di sì, credo che Diego sia un giocatore potenzialmente molto forte, ancora parecchio giovane, però credo anche che dobbiamo considerare il campionato che è appena finito, nel quale il divario di punti tra Juventus e Inter non è stato poi un divario pazzesco, quindi la Juve si è certamente rafforzata rispetto all'anno scorso. Bisogna capire se l'Inter si è rafforzata a sua volta rispetto allo scorso campionato. Tutte queste sono cose che si potranno scoprire soltanto sul campo, però apparentemente la sensazione è che la Juve si sia rafforzata più dell'Inter, sì, e quindi questo gap di punti in parte possa essere colmato, non so se del tutto, ma la Juve si è senz'altro avvicinata. Sì, diciamo che comunque l'Inter ha trovato dei giocatori di cui aveva bisogno, come diciamo cambi di quelli che già aveva, no? Perché comunque serviva senz'altro un giocatore di centrocampo che potesse dare respiro a Cambiasso, che magari potesse costituire un'alternativa a Stankovic. Si sta aspettando ancora Diego e Carvalho, ma mi sembra che la questione sia un po' troppo tirata per le lunghe per poi chiudersi. Ma sai, io credo che i giocatori che ha preso l'Inter siano veramente molto forti, sì, perché comunque sono due giocatori di grande livello. Però credo anche che l'Inter sia una squadra soprattutto fisica, che la grande differenza, al di là di Ibrahimovic e di Balotelli e di Maicon, che sono talenti puri, l'Inter l'abbia fatta soprattutto sul piano fisico nel campionato italiano, e che da questo punto di vista l'arrivo di Thiago Motta e di Milito abbia sicuramente aggiunto qualcosa sul piano tecnico, però non abbia fatto fare quel salto che invece la Juve ha certamente fatto, perché io credo che la Juve dell'anno scorso fosse una squadra, poi magari ognuno ha le sue opinioni, fosse una squadra che ha fatto forse più di quello, cioè, che valeva tecnicamente, e quindi essendo migliorata così tanto in teoria può fare ancora meglio. Però io credo che poi il vero problema sia della Juventus sia dell'Inter sia quello della verifica a livello internazionale, perché è lì che il gap tra la Juve, l'Inter e le rivali è stato più profondo, più, e in questo senso non so se nell'uno e nell'altro caso gli acquisti che sono stati fatti saranno sufficienti a colmare questo divario che l'anno scorso oggettivamente è parso molto netto tra l'Inter e la Juve e diciamo le due finaliste della Champions League. Io credo che anche quello di Cannavaro comunque sia, al di là dei gusti e delle disquisizioni interne alla tifoseria juventina, sia stato un acquisto intelligente. Sto parlando solo di calcio, non di rapporti tra giocatore e tifoseria, perché queste cose mi interessano poco. Però anche Cannavaro, che pure è un giocatore che prende un ingaggio piuttosto consistente, però se l'obiettivo è anche quello, ad esempio, come credo sia, vista la politica juventina, di lanciare, di far crescere per bene Ariaudo, che mi sembra il futuro se confermerà le sue doti, beh, anche quello di Cannavaro penso sia una soluzione intelligente. Io credo che quella fosse un'occasione più che altro, un'occasione di quelle che possono capitare durante il mercato, e la Juventus l'ha colta. Alla fine, se andasse bene, sarebbe un acquisto molto azzeccato. Se per caso andasse male, alla fine la Juventus comunque non è debolissima in difesa, almeno certo, non mi pare. Quindi credo che le necessità della Juve alla luce dello scorso campionato fossero altre, e credo che in questo senso l'acquisto di Diego e quello di Felipe Melo vadano appunto a colmare le lacune più evidenti nello scacchiere juventino. Sì, nello scheletro di una squadra che appunto, se aveva una debolezza a livello internazionale, l'aveva a centrocampo. Non trovi invece che la Juventus dovrebbe, forse per completare il salto di qualità, fare ancora qualcosina sugli esterni, sia dietro che a centrocampo? Perché Molinaro e Zebina con Grigera sono grosso modo gli esterni difensivi, si cerca ancora Grosso, eccetera. A centrocampo è andato via anche Marchionni, c'è Camoranesi con un anno in più e con tanti acciacchi addosso e sulle spalle. Non trovi che qualcosa sugli esterni servirebbe? Penso che i dirigenti della Juve abbiano assolutamente presente questo problema e che stiano cercando di provvedere in un mercato che comunque non è facile, e in una situazione societaria che, non dobbiamo mai dimenticarlo, non è la stessa alla quale, mi pare che ne avessimo già parlato qualche tempo sì, fa, la Juve di adesso, i tifosi della Juve se lo devono mettere in testa, ma dobbiamo capirlo un po' tutti, non è la Juve di prima, che poteva esercitare uno strapotere sul mercato, tanto più in un momento in cui alla concorrenza interna tradizionale si è aggiunta una concorrenza europea che le società italiane per un verso o per l'altro non sono assolutamente in grado di reggere. Certo. Due chiacchiere con gli ascoltatori. Massimiliano, Bologna, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io sono un tifoso juventino, quindi visto l'andamento del mercato in Italia di quest'anno forse sono l'unico che non si dovrebbe lamentare. Sì. Però chiedo a lei due osservazioni. La prima è che nel centrocampo della Juventus, centrocampo a tre presumo, non vedo più nessuna formazione di nessun giornale Camoranesi, che comunque non so dopo che cosa farà nella Juventus. Cioè, io un panchinaro come Camoranesi lo vedo difficile anche per gli equilibri di spogliatoio. La seconda è, però lei prima ha fatto la domanda al suo interlocutore, quindi mi ha un po' bruciato, che secondo me il primo acquisto che comunque andava fatto nella Juventus ancora prima di questi ultimi due molto molto grossi e importanti era appunto almeno un esterno difensivo, sì. Perché fra Zebina, Grigherà, Molinaro e De Ceglie non credo che ci siano gli esterni per arrivare a una finale di Coppa Campione o uno scudetto. Ascolto la risposta per radio, grazie. De Ceglie mi sembra ormai definitivamente un esterno di centrocampo nella considerazione della Juventina e non solo. Per il resto rispondere Cocurrò. Ma abbiamo già detto prima che il mercato non è finito, credo che il mercato sia fatto soprattutto di momenti, di occasioni, non è cronologico. Ha ragione l'ascoltatore a dire che la priorità da un punto di vista tecnico era colmare questa lacuna sugli esterni, perché era la carenza a livello tecnico più evidente, ma io credo che questo verrà fatto. Per il resto... Camoranesi che dici? Camoranesi io penso che dipenda essenzialmente da lui, perché da se Camoranesi anche sta bene, io credo che nessun allenatore ragionevole possa rinunciare a metterlo in campo, quindi non credo assolutamente che il fatto che adesso sui giornali, io faccio il giornalista, insomma, so bene come avvengono certe dinamiche, certo. In questo periodo si va più sulla novità che non sulla riflessione tecnica, perché se si andasse su quella evidentemente Camoranesi sarebbe titolare in tutte le formazioni. Naturale. Enrico, per chiudere, la rabbia viola, scritte comparse in ogni angolo della città, eccetera, nei confronti della dirigenza e così via. Certo, per un progetto importante e in continua evoluzione come quella della Fiorentina, perdere un giocatore di questo tipo è significativo. Anche lì però credo che ci si debba abituare a un nuovo corso, che io spero sia davvero un nuovo corso virtuoso. Penso al Milan, che improvvisamente e stranamente è diventato sobrio dal punto di vista delle spese, che è quello del contenimento degli ingaggi. E credo anche che quando un calciatore non può essere trattenuto, sia anche logico cercare di lasciarlo andare via, monetizzando il più possibile e sostituendolo nel migliore dei modi. Io non credo che Felipe Melo sostanzialmente fosse così imprescindibile per la Fiorentina. Io credo che se la Confederations Cup non ci fosse stata, probabilmente di questa cessione di Felipe Melo avrebbe suscitato delle reazioni molto più blande nella tifoseria della Fiorentina. È chiaro che lì poi bisogna anche fare una valutazione se la Fiorentina è davvero una società che ha intenzione di allestire per esempio una squadra che prima o poi possa vincere lo scudetto. Io questo non lo so, so solo che mi sembra che in certe valutazioni contro le società, io non è che sia filo societario mai, però nel caso specifico era possibile trattenere Felipe Melo? Io penso di no. E quindi no, alla fine che cosa doveva fare la società se non cercare di venderlo? 25 milioni di euro sono una gran bella quantità di soldi, sono una gran bella quantità di quattrini anche per il nostro mercato, e anche se Real Madrid non è parte in casa, insomma sono tanti soldi, 25 e mezzo più l'altra metà di Marchionni, quindi credo che sia stato monetizzato nel modo migliore. Ringrazio Enrico Conroy, inviato di Repubblica. Grazie davvero Enrico, ciao, buon lavoro. Previsto, già ve lo dico, un altro aggiornamento sul G8 naturalmente all'interno di quest'ora di A Tempo di Sport. Previsto anche, e anche qui vi anticipo, un rapido viaggio in Sudafrica, perché ci sono delle notizie che arrivano da laggiù e poi abbiamo alcuni discorsi in sospeso da chiudere. Però intanto i discorsi sono quelli con gli ascoltatori che vedo già prenotati: Davide, Marco, Felice da Napoli. 80024 0024 è il numero verde. Davide, buongiorno. Romero fosse una prima scelta. Sì. Perché appunto si è speso di più, sì, si è investito di più. Perché si è aspettato che Fiorentina e Felipe Melo decidessero di fare la clausola rescissoria e si spendesse quella cifra? È una domanda così da tifoso, ecco, solamente perché si è dovuto aspettare che loro facessero questa il prezzo, e dopo naturalmente noi siamo dovuti, abbiamo dovuto seguire il loro, certo, indirizzo, solo questo. Sì, no, non saprei rispondere, anche perché è da verificare il fatto che Felipe Melo fosse davvero la prima scelta della Juventus, che per lungo tempo ha inseguito D'Agostino, quindi io credo che quella di D'Agostino fosse una pista reale, così come quella che poi si è concretizzata. È evidente che comunque, clausola rescissoria o non clausola rescissoria, c'era una trattativa da fare con la Fiorentina, e non penso che la Fiorentina si sarebbe accontentata di meno dei soldi che ha poi in pratica ricevuto. Ripeto, è una grande idea anche dal punto di vista tattico quella di Felipe Melo, i motivi ce li ha spiegati prima Enrico Currò. Ripeto, la Juventus esce da questo mercato decisamente più forte rispetto a quella che ha chiuso lo scorso campionato, e anche qui, ripeto, se sia a livello dell'Inter non lo so dire. A occhio mi sembra che serva ancora qualcosa sugli esterni di difesa e centrocampo, e soprattutto credo che molto dipenderà, la risposta sia molto legata all'effettivo valore di Diego nel nostro campionato, e questo lo scopriremo solo vivendo, direi. Marco Udine, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono tifoso della Fiorentina, da Udine. Sì. Volevo fare alcuni appunti. Intanto spero finisca come per Mutu per l'anno scorso. Che intervenga della Valle e blocchi il passaggio. Ho molti dubbi, ma ci speriamo. Questo di Felipe Melo? Sì, su Felipe Melo. L'anno scorso Mutu aveva venuto la gomma e intervenne della Valle e blocco il passaggio. Sì, non uguale, comunque. No, comunque non è ancora chiuso, cioè le firme non ci sono ancora, risulta, l'ha detto anche oggi stesso Coboli Gigli, cioè per Melo è quasi tutto fatto, le firme mancano ancora, questo è vero. Dica. Un'altra cosa che volevo dire è come mai la dirigenza della Fiorentina, in particolare il direttore Corvino, ha fatto queste clausole rescissorie a dir suo per tutti i giocatori, invece non è vero, è stata fatta solo per Felipe Melo, quindi evidentemente la trattativa andava avanti già da tempo, perché su tutti i giocatori della Fiorentina solo su Felipe Melo è stata fatta questa clausola, gli altri giocatori non mi risulta assolutamente che non sono state fatte delle clausole. Terzo punto, questo progetto tanto decantato di Della Valle, nuovo progetto della Fiorentina eccetera eccetera, vorremmo sapere chiaramente qual è, perché se il progetto è quello che si sta vedendo, è un progetto vecchio che l'Udinese sta facendo da anni, cioè di valorizzare i giocatori acquistandoli per poco e vendendoli guadagnando, facendo plusvalenze. Beh, Marco, però mi perdoni, con una discreta... Non entrano in campo, Marco, mi perdoni, però con una discreta continuità di risultati ad alto livello per quanto riguarda la Fiorentina, perché la risposta, insomma, una risposta alla sua domanda l'abbiamo già data prima con Enrico Currò, cioè segno dei tempi, se arriva lì uno con tutti quei soldi per un giocatore ci si pensa sopra, ma non solo la Fiorentina lo fa, mi pare che anche il Milan abbia fatto ragionamenti di questo tipo, quindi è senz'altro segno dei tempi. Felipe Melo, gran giocatore, gran centrocampista, ritenuto evidentemente non insostituibile, tenuto conto di tutti i fattori in gioco. Alla Fiorentina qualcuno arriverà senz'altro al posto di Felipe Melo, potrebbe essere lo stesso D'Agostino che la Juventus ha inseguito, e quindi l'Udinese potrebbe da quella parte prendere i soldi che chiede per D'Agostino e che la Juventus non le ha dato, potrebbe essere Zemaidi, si legge oggi da qualche parte, certamente arriverà un sostituto di Felipe Melo. Mi domando anch'io, appunto, la domanda da farsi è se il progetto della Fiorentina ha come obiettivo finale una squadra da scudetto in X anni, oppure se il progetto della Fiorentina sia quello di comunque mantenere una squadra di alto livello in grado di lottare per la Champions League, monetizzando eventualmente giocatori che hanno questo tipo di mercato. A questo non so rispondere, bisognerebbe domandarlo a Della Valle. Felice da Napoli, buongiorno. Buongiorno, buona serata, complimenti per la trasmissione. Grazie. La domanda è molto semplice: questa Juve, così, con l'arrivo eventuale di Grosso, è competitiva anche per l'Europa? A inseguire l'Europa? Sì. Cioè a vincere la Champions League o a qualificarsi per quella successiva, cioè ad arrivare tra le prime tre, lei dice? Tra le prime quattro, minimo sì. In semifinale. Ma, beh, felice. Se la può lottare con il Real, con il Manchester, con la stessa Inter. Beh, insomma, dire che la Juventus oggi è a livello del Real Madrid, del Barcellona, del Manchester United, dello stesso Chelsea mi sembra tanto. Beh, del Chelsea può essere, adesso vediamo cosa combina Carletto Ancelotti, però insomma che la Juventus possa essere a livello delle due finaliste della scorsa Champions League ancora non credo. Per il resto senz'altro è una squadra che potrebbe essere una seria contendente all'Inter per quanto riguarda il campionato italiano. La strada europea dipende da un sacco di fattori, anche qui sarà molto importante capire quanto può essere l'apporto di Diego a questa squadra. Da Felice di Napoli andiamo a Campobasso da Amato, buongiorno. Pronto? Amato, buongiorno, non c'è, peccato. Giorgio, Firenze, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Pronto? Sì, la sento. Ecco, buongiorno a voi. Guardi, io sono da 30 anni frequentatore dello Stadio Franchi, quindi conosco bene tutti i giocatori della Fiorentina e tutto ciò che avviene a Firenze. Sì. Le assicuro una cosa, che per quanto riguarda Felipe Melo, è un buon giocatore, è un giocatore valido, ha un certo valore, ma non è certamente un giocatore, non è certamente uno dei giocatori determinanti per la Fiorentina. Quindi la Juve, secondo me, lo ha strapagato. I giocatori determinanti quest'anno per la Fiorentina sono stati Frey e sono stati Mutu quando ha potuto giocare, ma non è certo Felipe Melo. Beh, Felipe Melo è un buon giocatore, al pari di come lo è Montolivo, di come lo sono altri. È un ottimo centrocampista, Giorgio. È chiaro che insomma Mutu è un valore di tipo diverso, perché Mutu è il finalizzatore, Mutu è il goleador, Mutu è l'uomo dell'ultimo passaggio. Però insomma, io diverse volte ho visto la Fiorentina con Melo che si caricava sulle spalle del centrocampo e la portava avanti. È chiaro che hanno una Mutu è più appariscente come tipo di apporto che dà la squadra, Melo lo è meno, non sarà Falcao, non sarà giocatore di cambio la squadra, e lei ha ragione quando dice che comunque ok, il prezzo è giusto come minimo. Dica, prego. Giorgio. Sì, sono io ancora. Sì, esatto, è proprio quello che volevo dire io. Mentre gli altri due giocatori sono giocatori, chiaramente ognuno nel suo ruolo, però determinanti ai fini dell'esito delle partite, Felipe Melo è molto più sostituibile. Cioè, quando non c'è stato Felipe Melo, nessuno se n'è accorto più o meno nella Fiorentina. Quando è mancato Frey, se ne sono accorti tutti. Quando manca Mutu, se ne accorgono tutti. Qual era il mio concetto. Quanto a Mutu, se ne sono accorti un po' troppo spesso in questa stagione, che è stata disgraziatissima per il giocatore rumeno. Comunque ho sempre sostenuto che Mutu sia il giocatore chiave per il trasformatore chiave della Fiorentina, cioè è quello che dà alla squadra qualcosa in più, appunto in termini di gol, di assist, eccetera eccetera. È chiaro, non nell'ultima stagione in cui l'abbiamo visto davvero troppo poco per garantire questo tipo di apporto. Continueremo dopo le discussioni sul mercato e il calciomercato e quant'altro, 800240024 più tardi, però c'è un discorso che era qualche giorno che avevo voglia di fare e che riguarda il Sudafrica. Pertanto saluto innanzitutto Stefano Piazza, collegato con noi, ci ha raccontato la Confederation Cup da laggiù. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno a tutti. E poi saluto il collega che ben conoscete, Gigi Donelli, che conosce molto profondamente il Sudafrica, la realtà sudafricana, tra l'altro ha realizzato un documentario che potete anche riascoltare, La Via degli Stadi, e che è qui con me e con il quale prima della Confederation Cup avevamo tenuto una puntata molto interessante e molto dibattuta con gli ascoltatori. Ciao Gigi. Buon pomeriggio a tutti, sì, piuttosto dibattuta. E lo spunto, magari anche oggi, 800240024 numero verde. Lo spunto arriva da una notizia di questi giorni. Da oggi, c'è uno sciopero in Sudafrica, lavori interrotti perché causa sciopero ad oltranza proclamato dai lavoratori che reclamano un innalzamento del salario. il sindacato è quello potentissimo dei minatori, si chiede un aumento dei salari pari al 13%, e quindi da oggi, recita questa agenzia, questo comunicato, più di 70.000 operai smettono di lavorare nei siti sudafricani che ospiteranno i mondiali. I cantieri interessati sono quelli del treno rapido Gutrain Johannesburg, anche dello stadio, dei 10 stadi in costruzione, in ristrutturazione in Sudafrica, e dell'aeroporto di King Shaka vicino a Durban. Gigi, che ne pensi di questa notizia? Beh, penso che no, in realtà no, siamo di fronte forse all'ultima chance per chi sta costruendo materialmente gli stadi per ottenere qualcosa in più. Direi che bisogna sapere che in Sudafrica c'è una tradizione sindacale molto forte, non dimentichiamo che Mandela e tutto il movimento appunto di lotta all'apartheid nasce nel movimento sindacale. Movimento sindacale che si è formato attraverso la tradizione mineraria in particolare. Infatti ne parlavamo prima e si chiedeva come mai lo sciopero dei minatori che coinvolge chi invece costruisce le strade, perché le organizzazioni sindacali sono fondate su, in particolare quella dei minatori, perché il Sudafrica è un paese di grandi materie prime. Johannesburg, peraltro il nome locale, Egoli, non vuol dire altro che città dell'oro. È proprio a due passi dal grande stadio in costruzione tra Soweto e la città, si possono vedere queste colline che altro non sono che gli scarti di lavorazione delle miniere. Insomma, tutto si lega, per cui sorprendere e dire di no. Quanto guadagnano? Beh, allora, alla mia richieste personali, con un po' di imbarazzo, insomma, si parlava proprio di fronte allo stadio principale, quello della prima partita della finale, di 100 rand al giorno. Al cambio attuale sono 9 euro. 9 euro al giorno, che si chiede un innalzamento di questo salario. Esatto. Stefano Piazza, che è appena tornato dal Sudafrica. Stefano, il grosso interrogativo che circondava la Confederation Cup, la grossa preoccupazione per i mondiali prossimi venturi al netto dello sciopero, era quello della sicurezza. Mi sembra che l'esame è stato passato a pienissimi voti dal Sudafrica. Sì, io direi ho detto uno dei motivi forse per cui non c'è stato nessun incidente è che, sapendo di essere al centro dell'attenzione mondiale, c'è stato un dispiegamento di forze sia decisamente superiore. Abbiamo qualche problema di collegamento, vediamo se riusciamo a ristabilirlo, il collegamento con Stefano Piazza. Gigi, problema della sicurezza, però insomma, al di là di... Credo di quanto... che, come dire, di condividere il pezzo di discorso, sì, cioè è ovvio che sono delle realtà, come dire, delle realtà irreali, perché è ovvio che i sudafricani sapevano perfettamente che qualsiasi problema nella Confederation avrebbe creato problemi enormi. Quindi questo riguarda tutti, riguarda persino tutti i borseggiatori e i criminali appunto della grande periferia di Johannesburg. Ripeto, l'abbiamo sentito, appunto avevamo qualche problema di linea. È chiaro che questo non cancella tutto il discorso sulla sicurezza, è anche chiaro che la polizia sudafricana, ma non solamente, insomma il paese investe così pesantemente su questa realtà che sgarrare è pericoloso in questa fase. Sei d'accordo, Stefano? Dovrebbe essere buono allora il collegamento. Sì, speriamo di sì, infatti. No, sì. Sono assolutamente d'accordo. Tutti sanno che un qualunque gesto di violenza a questo punto sarebbe molto pericoloso per l'immagine, ma anche per forse per l'organizzazione stessa dei mondiali. Io non credo a questo punto che Blatter e la FIFA si giocheranno la faccia togliendo a meno di un anno dal mondiale l'organizzazione del Sudafrica, però quello era l'interrogativo maggiore, come ricordavi tu. E per il momento tutto è andato bene. In realtà una cosa che posso dire è che è vero che le statistiche sulla violenza sono impressionanti in Sudafrica, diciamo così, a favore del turismo si può dire che purtroppo, per fortuna, riguardano solo la fascia di popolazione più povera, quella che vive nelle township per il 99%, per cui diciamo che è difficile che possa capitare qualcosa anche perché, ripeto, durante questi grossi eventi ci sarà un'attenzione molto superiore alla media, per cui insomma diciamo che saranno tutti molto molto attenti. Stefano, che stadi hai trovato? Che tipo di strutture hai trovato? Quelle che ti aspettavi o qualcosa di diverso, di migliore? Poi parliamo anche degli stadi che non sono stati toccati da questa Confederation Cup, ma che Gigi Donnelly ha visitato. Stefano? Ma io direi qualcosa in più di quanto mi aspettassi, nel senso che Purtroppo i problemi di linea continuano e vediamo se è possibile ristabilire il collegamento con Stefano Piazza, però ci sono stati anche stadi non toccati da questa manifestazione e sono stadi molto importanti per diverse ragioni che attendono i mondiali in Sudafrica. Sì, a cominciare da quello appunto che dicevamo dell'FLN, quindi quello della partita del debutto e della finale che sorge a pochissimi chilometri da Soweto, quindi Johannesburg, direzione southwest, da cui appunto Soweto, la township più famosa dell'Africa, andando lungo la circonvallazione, che peraltro, come dire, come la tangenziale di Milano, grandi strade che portano fuori, o di Roma, e che portano fuori città, e lì sorge sulla collina questo luogo. Questo è uno, naturalmente Cape Town, ho visto questo colosso, devo dire, piuttosto impressionante, costruito in mezzo a un campo da golf a circa 100 metri dalla spiaggia, nel cuore della città più turistica, forse più spettacolare del Sudafrica. E poi dalla parte opposta, 1800 km a nord, lo stadio di Polokwane. Polokwane è in un mondo ribaltato, che è quello dell'emisfero australe, il profondo nord e il profondo sud. Siamo in zone profondamente rurali, molto belle per i turisti, zone molto meno battute, zone della cultura venda. Abbiamo parlato l'altra volta di quante culture ci siano in Sudafrica. Ecco, si stanno costruendo quello che la notizia che ha dato spunto a questa conversazione sullo sciopero. Certo, bisogna finirli questi stadi. Teniamo conto che oggi, se non sbaglio, sono 337 giorni. Anzi, non sbaglio perché l'ho visto un attimo fa sul web. Ma gli stadi dovrebbero essere ultimati in ottobre. Io credo che sia una ultima chance per ottenere qualcosa in più, e direi anche legittimo da parte di chi li sta costruendo. Non credo che si arriverà a mettere a rischio un progetto che, ricordiamolo, solo in termini di investimento ha finora prodotto lo stanziamento di 38 miliardi di rand, quindi per comodità diciamo una 10, non una 11, sono quasi 4 miliardi di euro. Gigi, un altro nodo è quello delle vie di comunicazione. Si diceva il grande problema evidenziato dalla Confederation Cup non è tanto quello legato agli stadi, ai lavori relativi proprio alla parte tra virgolette calcistica, quanto proprio le vie di comunicazione, tanto che Blatter aveva paventato la possibilità di tornare alle sedi fisse dei gironi, come non accade più da Francia 98. Ritieni che sia un problema? Che forse lo sarebbe una brutta idea. Io non me ne parlo calcisticamente. Ora siamo in un mondo in cui si parla sempre più spesso del consumo, del trasporto delle merci, no? Sì. E di come, appunto, quando anch'io stesso in Sudafrica, devo dire, sono rimasto abbastanza sbalordito a vedere che per esempio le bottiglie d'acqua minerale prodotte nel sud del Sudafrica le ritrovi poi nell'estremo nord a 2000 km. Ma vabbè, questo è un discorso di economia più ampio. Ecco, il Sudafrica tradizionalmente ha pessimi mezzi di trasporto. Con un chiarimento, con gli aerei si va praticamente ovunque, anche nei piccoli aeroporti. Le automobili ti portano ovunque, le strade sono buone, tra il buono e l'ottimo, poi veramente in generale. Manca totalmente il trasporto ferroviario. Il trasporto ferroviario e quello, diciamo, urbano è totalmente legato a quella che è stata la logica dell'apartheid. I trenini gialli di Soweto fanno una serie di stazioni che corrispondevano ai luoghi di lavoro. E di nuovo le miniere, il centro, eccetera. Insomma, la struttura, le infrastrutture del trasporto sono un classico che non riguarda tanto il Mondiale del 2010, ma forse uno dei grandi problemi, appunto, assieme a quello della criminalità, che Sudafrica sconta. Che potrebbe sfruttare l'occasione del Mondiale, magari. Ma infatti è questo che si era detto. È questo il punto. A Durban, come a Città del Capo, aeroporti nuovi, li ho visti in fase di ultimazione. Tutto vero, come spesso accade, è più facile quasi costruire il colosso che andare poi a mettere a posto le stazioni per le persone normali. Gigi, per chiudere, i due stadi di Johannesburg. Allora, quello in cui si è giocata la Confederation Cup, l'Ellis Park, storico monumento. Però lo stadio, naturalmente, della finale è lì a Johannesburg, ma non è quello. Assolutamente no, è uno stadio che è stato costruito appunto, come dicevo, a 3 chilometri scarsi da Soweto, in cima a una collina, uno stadio che viene completato ora da un gruppo di architetti e anzi costruttori a questo punto sudafricani, un vero e proprio simbolo, icona dell'Africa, perché rappresenta quel contenitore che è molto colorato, che spesso si vede sulla testa delle donne africane. Questo ormai accade solamente nel nord del Sudafrica, e che camminano appunto per le strade di campagna, le mani in basso e il loro contenitore sulla testa. Ecco, lo stadio NFL rappresenta esattamente questo, quindi un'icona africana trasformata in questo gigantesco stadio da 90 e rotti mila posti a sedere. 90 e passa, sì. Grazie Gigi. Grazie a te. È stato un piacere. Grazie Gigi Donelli. Ecco che torniamo. La notizia era nell'aria, è uscita ora. Pierluigi Collina, designatore per la serie A e B come responsabile della CAN delle due serie maggiori. Stefano Braschi alla guida del CAN della Lega Pro e Stefano Farina responsabile della CAN di serie D. Sono questi i quadri designati per la prossima stagione, come annunciato dal presidente dell'Associazione Italiana Marcello Nicchi. Dunque Collina rimane il designatore. Torniamo invece a parlare con gli ascoltatori, a cominciare da Siena. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono un tifoso della Fiorentina. Sì. Mi volevo esprimere a proposito di quello che ho sentito prima. Mi sembra veramente da stupidi criticare la società, perché in un momento come questo di non soldi, mi sembra che Corvino ha dimostrato di essere un grandissimo e abile direttore sportivo. Perché comprando un giocatore, perché Melo è un buon giocatore, non è un campionissimo, a 8 milioni rivendere da 25. Sì. No, ma sono d'accordo. Credo che abbia fatto veramente. Sono d'accordo con lei, Mario, sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei, cioè non stiamo parlando di un ottimo giocatore su cui la Fiorentina ha fatto un sacco di soldi e li ha fatti in maniera del tutto legittima. Io credo che la gran parte della tifoseria fiorentina la pensi come lei. Sono curioso invece di capire cosa succederà al Real Madrid, gente che di soldi ne sta facendo girare anche troppi, perché ci sono delle dichiarazioni di Valdano per cui si dice Michael non ci interessa più perché siamo coperti in quel ruolo, Fabregas nemmeno perché ci serve un centrocampista più difensivo. In Spagna scrivono di una offerta pronta per Daniele De Rossi, offerta di 30 milioni di euro. Guarda caso esattamente la cifra che alla Roma serve e serve urgentemente per far fronte alle spese correnti, vista la situazione che ben conosciamo. Marco D'Ancona, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, un'informazione. Io volevo sapere, a proposito della Juventus, sono un tifoso della Juventus, ecco, sta nascendo una Juventus stile brasiliano, no? Abbiamo una Mauri che comunque, vabbè, è italiano, però sì, è mezzo brasiliano. Abbiamo No, Diego. È brasiliano del tutto, mi perdono. Ecco, va bene, sì. Un Diego comunque è un fuoriclasse e ora sembra Felipe Melo, se c'è l'ufficialità. Sì, ma ecco, arriva. Secondo voi, che siete esperti e competenti di calcio, questa Juve brasiliana può andare lontano in Italia e in Europa? Io rispondo come ho risposto prima, cioè secondo me manca ancora qualcosina al capitolo esterni, perché Zevinà e Molinaro per la difesa, centrocampo abbiamo Camoranesi, De Ceglia eccetera, qualcosa servirebbe appunto sulle fasce, ma l'esigenza è tenuta ben presente dalla dirigenza bianconera. Se si opererà in quella direzione ancora, allora io credo che la Juventus sia seriamente la prima avversaria dell'Inter. E poi ripeto, molto dipenderà anche dalla riprova del rendimento di Diego nel nostro campionato, perché quello è un nodo importante. Era esattamente il giocatore che alla Juventus è mancato come l'aria l'anno passato e che ora è arrivato. Grazie Marco Antonio Como, buongiorno. Buongiorno. Mi abbassi la radio, grazie, perché sennò sento ritorno in cuffia. Buongiorno, innanzitutto complimenti per l'approccio della trasmissione e come affrontate lo sport. Grazie. Una cosa, io sono appassionato di ciclismo, ho corso in bici con pessimi risultati, però dico che ieri Armstrong ha ucciso psicologicamente Contador. Ieri lo ha già detto, se voglio vinco il Tour. Sì, ho l'impressione anch'io. Beh, poi vediamo, è chiaro che gli ha mandato se è una partita a poker, diciamo che o Armstrong sta bluffando o ha le carte buone. E comunque Contador deve tenerne conto, che sia un bluff o no, perché è difficile, Antonio, non so come la pensi lei, però è difficile dire se il vecchio Lens abbia veramente le gambe per vincere il Tour. Ma una cosa, posso dirla? Prego, certo che puoi. Lui, se non aveva l'inghippo della clavicola al giro, il Tour ce l'aveva già, cioè, avrebbe avrebbe anche cambiato squadra o che cosa, con tutti i problemi che hanno avuto l'Astana. Perché lui comunque sa che è forte e sa che se non aveva rotto la clavicola poteva già al 100% vincere il giro. E non è finita qua, perché questo qua vince il mondiale e butterà dentro ancora qualcosa. Lei dice. È un marziano questo qua. Non lo so che è un marziano, però insomma l'età è quella che è anche per i marziani e gli anni di lontananza dal ciclismo sono comunque un buon numero. Io aspetterei, senz'altro Armstrong è un diavolo dal punto di vista tattico, è comunque un corridore di straordinario talento, di straordinaria potenza, di straordinario tutto quanto, però da lì a dire che abbia veramente le gambe per tenere 3 settimane a quel livello e per vincere il Tour, fino adesso appunto abbiamo visto un grande messaggio inviato a tutti quanti, primi fra tutti Contador, che non credo abbia ancora la personalità per fronteggiare questo attacco che Armstrong gli ha portato, appunto dal punto di vista mentale e psicologico. Nei prossimi giorni ne capiremo di più. Chiudiamo con Massimo da Padova. Buongiorno Massimo. Buongiorno a lei. Niente, volevo parlare della Juventus e degli acquisti che ha fatto in questo ultimo grande. Sto osservando basito gli acquisti l'anno scorso, il centravanti come Mauri, che sinceramente io penso la Juventus non servisse più che tanto, avendo già un attacco solido. Quest'anno l'acquisto di un fantasista, diciamo, sì, un trequartista come Diego, praticamente accantonando, a mio avviso, definitivamente un nostro gioiellino come Sebastiano Giovinco. E poi per ultimo ho sentito di questo acquisto di questo brasiliano Melo, che è un incontrista, non è un regista, che a mio avviso non vale, ma alla grande non vale Claudio Marchisio. Stiamo acquistando i giocatori che a mio avviso, per carità, saranno ciliegine, ma non fanno satura vera, e ci dimentichiamo che noi all'esterno non abbiamo praticamente nessuno, abbiamo gente di secondo piano, con Camoranesi che è rotto per metà dell'anno, abbiamo venduto un esterno che lo sostituiva, un esterno sinistro come Neville che si è ritirato, e due terzini che sono... Diciamo, sì, no, ma lì Massimo, si diceva lì si deve lavorare, però lì si deve lavorare, ma lo sa lei, lo sappiamo tutti, lo sa meglio di tutti noi la dirigenza juventina, lo sa meglio di tutti noi Ferrara. Lì si deve lavorare, però da lì a dire che gli acquisti che sono stati fatti, l'anno scorso è stato un acquisto funzionale e che ha reso sul campo, almeno fino a quando non si è infortunato, è stata Mauri. È stata la miglior mossa della dirigenza juventina negli ultimi 2 anni fino a questa campagna acquisti, senz'altro, perché tutto il resto, Thiago, Poulsen, eccetera, sono ancora lì a pesare sul bilancio juventino. Invece quest'anno, insomma, mi pare che l'anno scorso si è visto chiaramente. Se c'era un giocatore che chiudeva la porta a Giovinco, era Del Piero, chiaramente. Diego gioca in un ruolo diverso, secondo me, perché è un giocatore differente rispetto sia a Del Piero che a Giovinco. E sull'acquisto di Felipe Melo, al di là dei tanti soldi, forse troppi, che sono stati spesi, non mi sembra esattamente un acquisto inutile per la Juventus, anche perché è un ruolo diverso anche qui da quello di Marchisio, che io credo sarà titolare insieme a Felipe Melo, assiso con il centrocampo bianconero. Poi vediamo come deciderà di mischiare le carte Ferrara. Aggiorniamo la seduta, torniamo domani alle 14. Grazie a Gigi Borghi in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Buona giornata a tutti.